vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 18 novembre, il sole in regione sorto alle 7.12 e tramonterà alle 16.33. Venerdì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Gloria De Canutti. Dopo l'arretramento del mais, nei campi del Friuli Venezia Giulia c'è stata una ripresa delle colture di autunno vernini, strategici per le corrette rotazioni agrarie. La scorsa annata, non particolarmente buona, ha però segnato una battuta d'arresto e già si pensa alla rimonta del mais e della soia, che quest'ultima potrebbe pericolosamente affermarsi come nuova monocoltura. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi a un corsivo di Enos Costantini, che a mo' di parabola analizza le difficoltà dell'affermarsi delle filiere agricole locali. Nello spazio delle normative, una impietosa analisi dello stato di avanzamento dei pagamenti del PSR. E a seguire una fotografia fino 800 sull'allevamento bovino in regione. Nella rubrica dei giardini avremo quello del castello di Susans e per la storia della grappa l'affermarsi delle prime distillerie industriali. Andamento dei mercati, previsione del tempo e il proverbio della settimana chiudono la puntata. Sono questi i giorni delle semine delle colture autunno-vernine, orzo e frumento in particolare, colture che stanno riconquistando degli spazi visto l'arretramento del mais. Il punto lo facciamo con Marco Signor, perito agrario dell'ERSA, che sta seguendo in maniera particolare queste colture anche con dei campi di sperimentazione. Quali le novità? In un quadro generale noi possiamo osservare come le colture autunno-vernine siano soggette comunque a una stagionalità, quindi i risultati produttivi del 2018 non sono stati molto favorevoli, le produzioni sono state piuttosto scarse, ma sarebbe assolutamente miope fermarsi e prendere in considerazione solo l'ultimo anno. Infatti il 2017, l'anno precedente, aveva dato degli eccellenti risultati sia sul piano produttivo, quindi quantitativo, che sul piano della qualità del prodotto. Dobbiamo comunque prendere in considerazione le colture autunno-vernine in un programma più ampio, in un programma di rotazione, dove inserire questo cereale, che può essere l'orzo o il frumento, permette di ottenere una eccellente coltura di soia in secondo raccolto. Tra gli autunno-vernini abbiamo anche il colza. Sì, il colza ora possiamo proprio dire che va seminato nel mese di settembre, quindi non è il caso di mettersi a seminare colza in questo periodo. Direi che possiamo fare un'osservazione riguardo alla soia, perché siamo venuti fuori da una stagione in cui il problema della cimice sostanzialmente viene attribuita alla soia la causa di questa presenza. In realtà i danni che fa questo insetto alla soia sono stati limitati ai bordi degli appezzamenti. Quindi, diciamolo chiaramente, la soia viene colpita da questo insetto, ma il danno è evidentemente proprio sui bordi degli appezzamenti. Quello che abbiamo visto quest'anno è la diffusione di questo insetto in aree più ampie rispetto all'anno precedente, ma tutto sommato c'è un fraintendimento. Il fraintendimento è vedere delle colture che rimangono verdi, ma nel caso sia tutto l'appezzamento verde, stiamo parlando allora di un altro problema, che è le alte temperature. Quest'anno, quindi 2018, il periodo di alte temperature è andato da fine luglio fino a metà agosto e la soia ne ha sofferto in particolare nel Medio Friuli, mentre questa problematica è sentita in maniera minore nella quella che chiamiamo la bassa friulana. Si sta parlando di una rimonta del mais, a patirne saranno gli autunno-vernini? Tutto dipende da quanta superficie di cereali autunno-vernini andrà giù in questo periodo. Di fatto c'è proprio un'influenza diretta sull'annata successiva in funzione di quanti cereali autunno-vernini vengono seminati. Probabilmente i buoni risultati ottenuti nel 2018 con il mais faranno sì che questa coltura riprenderà una certa quota di superficie. Se pensiamo che la soia quest'anno ha superato il mais, io credo che non sarà possibile che si ripeta questo fenomeno, proprio perché il mais è andato molto bene e la soia un po' meno bene. Lei è anche un grande esperto appunto di soia. Rischiamo quello che abbiamo rischiato con il mais, la monocoltura? Alcuni, vedendo le caratteristiche della soia, cioè minori spese perché non c'è concimazione, prodotto che in genere viene una buona qualità, una buona resa, stanno facendo la monocoltura. Direi che non è il caso di fare questa cosa, direi che proprio rischiamo di avere degli appezzamenti con grossi problemi di malattie. E di conseguenza caldamente proprio mi invito a non fare questa operazione, è decisamente deleteria. José de la Frontera è un fantomatico allenatore di calcio chiamato in Friuli per risollevare le sorti di una squadra locale. Chiede una dieta particolare per i suoi giocatori, a chilometro zero, ma non viene accontentato. Una parabola, questa di Enos Costantini, che deve far riflettere. La squadra di Ballon del Sorisens perde sempre. Ha perso perfino un derby amichevole con la Triestina. I tifosi sono sul piede di guerra e minacciano di bloccare l'autostrada A4. I vari allenatori succeduti si hanno accumulato solo fiaschi. Ora si fa il nome di José de la Frontera, sconosciuto ai più, ma pare che abbia risollevato le sorti di tante squadre decotte di Castiglia e Navarra, Aragona e Catalogna. I tifosi occupano la piazza di Sourizings al grido di José o Austria. Allora la politica si mette in moto e arriva José de la Frontera, il quale, portato a cena nel miglior ristorante, chiede un piatto di brovada col musetto. È un minestrone di verdure, aggiungendo che siano dell'orto del ristoratore. Dicono che la brovada non c'è e che il ristorante non ha orto. Ecco perché la squadra del Sourizings perde sempre, commenta lapidario José de la Frontera e si accomiata dai presenti. Il neo allenatore avverte i dirigenti della squadra e il cuoco. A colazione, pranzo e cena solo prodotti locali, se no non si vince. Gli dicono delle eccellenze del territorio. José fa un sorriso sornione che si tramuta presto in uno sghignazzo seguito dal seguente commento. Certo, se il territorio è Argentina, Brasile o Stati Uniti, da cui provengono gli alimenti per gli animali che fanno le vostre eccellenze, potrei essere d'accordo. Ma qui non siamo nella Pampa o nel Mato Grosso. I vostri calciatori del Ballon devono mangiare verdure e fagioli locali, solo così avranno l'energia per vincere. Gli dicono che nei dintorni di Sourizings non c'è nulla di tutto ciò. Un poetastro scrive una pasquinata, il quotidiano locale fa ironia, un pennaiolo definisce il neo allenatore come il guru dei broccoli. Nessun giornalista fa un'inchiesta sulla filiera agroalimentare di Sourizings. José de la Frontera fa l'elogio del radicchio triestino. Il patron e gli sponsor della squadra sono disorientati. C'è chi propone di fare come gli ospedali e i collegi di una volta, tenere un'azienda agricola che produca quanto serve per la squadra e il resto venderlo. Il medico sportivo e il cappellano della squadra sono d'accordo, la moglie del patron è entusiasta, l'amante del direttore tecnico è dubbiosa. L'assessore allo sport chatta continuamente con l'assessore all'agricoltura per vedere il da farsi. La segretaria del primo informa la segretaria del secondo che le nocciole di Sourizings vengono dall'Oregon. La seconda dice benissimo, perché pensa che l'Oregon si trovi in alto, lassù, subito dopo la Carnia. Dopo 2 mesi di polemiche, di lanci di agenzie, di titoli cubitali e di prime pagine del quotidiano locale, non se ne farà nulla. José de la Frontera se ne torna sui Pirenei con la fidanzata trovata a Barcola e chiude il breve periodo di Sourizings con una terrina di radicchio triestino. All'aeroporto di Treviso c'è un solo tifoso a salutarlo. È un anziano ex alpino che si mette sull'attenti prima di consegnargli un salame casalingo a mo' di viatico. «Avevo le stesse idee quando ero assessore all'agricoltura», aggiunge mesto l'alpino. Ma mi hanno subito messo in ridicolo e fatto fuori. Hasta pronto, José. Mandi frutta, risponde commosso José. Caro ascoltatore, come avrai capito, questa è una metafora e se vuoi chiamala pure parabola. Come disse qualcuno con la Q maiuscola, chi ha orecchi per intendere, intenda. Approssimandoci alla fine dell'anno, tentiamo di fare il punto sull'avanzamento della spesa del programma di sviluppo rurale, questo ovviamente assieme a Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Il Ministero delle Politiche Agricole pubblica all'interno del sito www.reterurale.it tutte le informazioni relative al PSR, nonché i report mensili sull'avanzamento della spesa. E come sta procedendo complessivamente in Italia l'utilizzo dei fondi? Sono stati spesi complessivamente 3,8 miliardi di euro, che approssimativamente provengono metà da fondi comunitari, metà da dotazioni nazionali e regionali. Solo nel secondo trimestre 2018 è stato erogato poco più di mezzo miliardo. Al 30 giugno l'avanzamento della spesa a livello nazionale risultava pari al 18,35%, ma con grandi differenze tra una regione e l'altra, dall'8% di Abruzzo e Liguria al 43% della provincia di Bolzano. E qui da noi in Friuli Venezia Giulia? Sulla base dell'ultimo report mensile, quello pubblicato i primi di settembre con riferimento ai dati 31 agosto, in Friuli Venezia Giulia l'ammontare degli aiuti incassati dagli agricoltori rispetto a quelli messi a bando è pari al 10% dell'intero programma. Siamo quindi sotto la media nazionale e il dato non si può dire soddisfacente, tuttavia ci sono elementi che portano a ritenere che nei prossimi mesi ci sarà un'accelerazione della spesa. Per esempio? Anzitutto sono stati risolti alcuni problemi di incrocio fra banche dati informatiche. Secondariamente una ventina di milioni sono stati trasferiti al fondo di rotazione che consente ora di anticipare finanziamenti a tasso agevolato con procedure molto veloci. Infine sono state introdotte semplificazioni alle varianti su progetti già finanziati. Quest'ultimo aspetto è più importante di quanto possa apparire. Se si considera che la quasi totalità dei fondi PSR è già stato messo a bando, è ora fondamentale che gli investimenti programmati e approvati vengano realizzati completamente nel tempo più breve possibile dai richiedenti. Tutto bene dunque? Assolutamente no, il giudizio sul PSR resta molto critico per la farraginosità delle norme e per l'inadeguatezza degli strumenti informatici messi a disposizione dall'organismo pagatore AGEA. L'importante, per ora, è aver scongiurato i meccanismi di disimpegno automatico che avrebbero comportato la restituzione di fondi a Bruxelles per il fatto di non essere stati capaci di spenderli nei tempi previsti dai regolamenti comunitari. In questa puntata dedicata ai bovini, Sandro Mennegon prende in considerazione la pianura, sempre per il periodo metà 800, prima guerra mondiale. In pianura, la possibilità di lavorare i terreni e mettere la cultura fece sì che l'agricoltura predominasse sull'allevamento. Quello bovino si orientava verso animali con rilevante attitudine al lavoro, che per la loro scarsa predisposizione alla produzione del latte e della carne venivano considerati un male necessario e un opificio la cui materia prima è il foraggio che essi trasformano in letame. Da ricordare inoltre che nell'arida alta media pianura la produzione dei prati era scarsa e che durante l'estate la carenza di acqua rendeva spesso problematica la beverata. Di contro, sotto la linea delle risorgive, l'abbondanza di acqua, specialmente nella paludi, favoriva l'accrescimento della vegetazione, che però era più adatta a essere utilizzata come strame che come foraggio. Quindi terreni e foraggi anche in pianura condizionavano la scelta delle razze? Nella parte più occidentale della destra tagliamento, dove i terreni argillosi richiedevano un bovino resistente alla fatica, veniva allevato prevalentemente bestiame bigio con buona attitudine al lavoro. Nel rimanente territorio della provincia, caratterizzato prevalentemente da terreni più sciolti, era diffusa la razza friulana. Rilevante il numero dei buoi, usati anche per i trasporti su strada. In base alla statistica del 1868, 44.452 vacche e 28.725 buoi. E quali caratteristiche somatiche dei bovini friulani? Il bestiame friulano, mantello frumentino, era caratterizzato da scarse forme armoniche, con poca attitudine alla produzione lattea. Le mungane quasi non ne danno, al di là dell'occorrente del vitello loro proprio, e per quanto riguarda l'attitudine al lavoro, erano animali, docili e ubbidienti, ma non hanno sempre un cesso abbastanza regolare e un sistema di trazione né calmo né maestoso, come le hanno alcune razze perfezionate da lavoro. Questa nostra meriterebbe l'epiteto che la gente gli ha dato di bue cavallo. Nelle aree di transizione risultavano alle volte presenti incrocio fra Florana e Bigia. Per la rubrica dei giardini oggi Franca Merluzzi ci parla di quello del castello di Susans in comune di Maiano. Più che un castello è una villa, fatta costruire intorno al 1640 dal nobile friulano Fabrizio di Coloredo Mels, uomo di fiducia di Ferdinando II dei Medici. Di proprietà privata, castello e giardino sono visitabili in occasione di eventi, come il Festival Maravè, in corso questa settimana fino al 25 novembre. Si accede imboccando il viale che sale al colle, fiancheggiato da due filari di cipressi. Si nota un esemplare secolare riconosciuto albero monumentale della regione. Poi, varcato il cancello, si entra nel grande giardino, un ettaro e mezzo, caratterizzato da una ricercata sobrietà. Tenuto a prato, posto su livelli diversi e interamente cintato, ha una particolarità. È suddiviso in due parti, una inferiore che ha una bella forma a semicerchio e una rettangolare antestante il castello. Questa configurazione e il viale dei cipressi richiama i giardini delle ville medicee toscane. L'assetto attuale è stato progettato da Annalisa Marini, recuperando le simmetrie tipiche del giardino formale italiano, con bordure in bosso e siepine di rose lungo il viale di accesso, salvaguardando gli alberi più vecchi, come il vecchio caco selvatico, a cui corrisponde uno di recente piantumazione sul lato opposto. Sempre nel giardino superiore, un cedro del Libano e aceri su un lato e cedri dell'Himalaya e magnole sull'altro. Sulla radura, composizioni simmetriche, a mezzaluna quelle con le rose, circolari quelle con bordura di teucrio, racchiudendi lagerstremie e mirabolani. Lungo il muro curvilineo del giardino inferiore, solo due filari di pere da fiore, e sui muri tante varietà di rose, di cui ancora in fiore. Sul retro della villa si estende quello che era l'antico brolo. E ad evocare questa funzione sono state rimpiantate vecchie varietà di alberi da frutto. Sul fondo, di nuovo rose e ciliegi da fiore giapponesi. Ortensie bianche invece ai lati della scalinata. Per la storia della grappa, oggi Gabriele Cajazza ci parla della fondazione a fine 800 delle prime distillerie industriali, marchi che hanno durato nel tempo e possiamo incontrare ancora oggi. Un opificio distillatorio nacque a Castions di Zoppola nel 1879, quando il 18enne Domenico Campagna mise in funzione un proprio alambicco self-made. Trascorsa l'incertezza dei primi anni, l'attività iniziò a rendere, sicché egli poté metter su una botteguccia che la gente del posto soprannominò la Sgnaperie. Si apriva sulla piazza del paese e i compaesani, prima di affrontare la fatica quotidiana, vi facevano una rapida sosta mattutina per sosseggiare un decimin. Per Domenico Campagna fu la svolta. Nel 1904 edificò in via Favetti un fabbricato più grande, comprendente sia l'abitazione che l'opificio laboratorio, ove ancora oggi si distilla. Non avendo figli, il fondatore dell'impresa prese a bottega un giovane di buone speranze, di nome Lindo Pagura, che poi ne divenne l'erede. E alla sua morte prematura, la vedova Giovanna Mistruzzi gestì tanto bene gli affari da consentire ai discendenti di portare fino ai giorni nostri una distilleria tenacemente legata alla lunghissima tradizione di famiglia. Un'altra fra le più antiche ditte regionali è la Stock, fondata nel 1884 dal 18enne Lionello Stock col socio Carlo Camis a Barcola, mirando tuttavia a distillare vini, in particolare quelli prodotti lungo la costa adriatica orientale. Si inserirono così in un mercato all'epoca signoreggiato dalle produzioni tipiche francesi, ma in cui, malgrado tutto, riuscirono a immettersi molto bene, puntando fin dall'inizio su un'ampia e decisa opera pubblicitaria. Innanzitutto produttrice di brandy, la ditta triestina distillò pure grappa, senza però ricorrere a uve d'area giuliana né del Friuli. Dapprima, grazie all'acquisto di piccole distillerie sulle coste istriano-dalmate, l'Ampelea, quindi, lambicando la vinaccia di moscato del Piemonte, la Dorata. Due rinomate antenate di quella che decenni più tardi sarà la sua grappa per antonomasia, la Julia, dal lungo riposo in botti di rovere. Appena più recenti sono le origini di una nota ditta friulana. Nel 1886, sulla pedemontana orientale, il giovane Giacomo Ceschia cominciò infatti a girare fra i viticoltori col suo alambicco montato su un carro trainato da un cavallo, per distillare le vinacce dopo qualche settimana di fermentazione in capienti tini o botti. E così continuò a fare finché decise di stanziarsi a Nimis e dotare di una sede fissa la ditta che ne porterà il nome, producendo svariati distillati accanto alla più nota grappa di Ramandolo. Appena sei anni dopo, nel 1890, l'azienda De Mezzo, che già produceva laterizi, oltre a occuparsi della coltivazione di cereali, gelsi, froaggi e viti, fece installare nella propria sede di Maiano il suo primo alambicco, fondando l'omonima distilleria. Nel 1996 gli eredi, non potendo leggere bene con sicurezza fra i vecchi documenti, privilegeranno nel dubbio la data meno risalente, festeggiando il primo centenario con 6 anni di ritardo. Ciò non toglie che la fondazione sia avvenuta 106 anni prima, ovvero sia 128 anni fa. Ed ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento ancora attivo venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole e Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,60 e 16,80 euro al quintale, IVA esclusa. Il frumento tenero buono mercantile tra 20, 20 e 30, l'orzo tra 20 e 20, 20 e 70, la soia tra 32 e 70, 33 e 20. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è aumentato di 10 centesimi, mentre la soia è diminuita di circa 5,30 euro il quintale. Scambi positivi con discreti affari al mercato ortofrutticolo di Udine, dove l'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono pagate tra 1,20 euro il chilo IVA esclusa, la cicoria tra 0,90 e 1 euro, le tegoline e le zucchine tra 2,80 e 3 euro, la scarola riccia tra 2,30 e 2,40, le melanzane tonde tra 1,50 e 1,50, i pomodori italiani in grappolo tra 1,70 e 1,80, i finocchi tra 0,90 e 1,10, il radicchio rosso tondo tra 1 e 1,30, i peperoni gialli e rossi italiani tra 1,40 e 1,80, i cavoli tra 1 e 1,20, l'uva italiana tra 1,70 e 2 euro, i kiwi tra 1,50 e 1,80, le clementine tra 0,80 e 1,50, le arance tra 1,10 e 1,50 e le castagne tra 3,50 e 4,50 euro al chilo. Il settore della pesca è in difficoltà per le condizioni meteo e i prezzi però sono in leggero aumento. Al mercato della cooperativa pescatori Milano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati tra 18 e 23 euro al chilo al netto dell'IVA. Le sogliole tra 6 e 22, le orate tra 6 e 15, le canoce da 6 a 10, le passere tra 11 e 14, le capesante da 10 a 16. Infine, scambi attivi sui mercati avicunicoli con i polli a terra pagati tra 1,08 e 1,10 euro al chilo IVA esclusa, i tacchini maschi tra 1,41 e 1,43, le faraone e le anatre tra 2,45 e 2,49, le oche tra 4,60 e 4,80, i conigli oltre 2,5 kg, quotati dal CUM di Verona tra 2,39 e 2,45 euro al chilo. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Arturo Pucillo, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. A partire da metà della settimana scorsa, la massa d'aria presente sulla regione ha iniziato a cambiare, grazie all'arrivo di correnti più fredde e secche da nord-est. Proprio queste ore, un ulteriore impulso in quota proveniente dalla Russia determina l'approfondimento di una depressione verso la Francia, che da un lato farà fluire ancora la borra di bassi strati e dall'altro porterà aria più umida da sud-ovest in quota. Ecco che già domani il cielo sarà nuvoloso coperto e potrebbe cadere nevischio sulle Alpi, mentre sul pianura costa non ci saranno precipitazioni, soffierà borra moderata. Martedì un fronte mediterraneo potrebbe risalire fin verso la nostra regione, determinando un rinforzo della borra, fino a molto forte sulla costa e un passaggio di precipitazioni diffuse e moderate, nevose sui monti inizialmente fino a fondo valle. Verso sera fenomeni in attenuazione, ma rimangono ancora diverse incertezze. Mercoledì e giovedì miglioramento con cielo poco nuvoloso variabile e borra moderata, grazie a un promontorio di alta pressione. Temperature in lieve aumento. Venerdì potrebbe esserci un aumento della nuvolosità, che nel fine settimana potrebbe determinare qualche precipitazione, con temperature in ulteriore aumento. Per una corretta informazione sull'evoluzione vi invitiamo comunque a seguire gli aggiornamenti dell'Osmer ARPA sul web, sui social network e naturalmente sui programmi radiofonici e televisivi della RAI regionale. Alla prossima! Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Sas vintel di San Gregori par 40 dis al toce cori, ovvero se il giorno di San Gregorio, il 17 novembre, soffia il vento, per 40 giorni si dovrà correre, nel senso che il vento continuerà. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it e potete trovarci sul sito della TGR. Armando Mucchino, Gloria De Ganutti e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.